Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Siamo nel 2020, ci fermiamo davanti a un negozio di mobili, sfogliamo il catalogo attraverso un touchscreen e scegliamo il prodotto che ci interessa. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, facciamo un salto in avanti nel tempo alla scoperta del negozio del futuro. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di nuovi modi di applicare il concetto di sostenibilità nelle formule commerciali e per il focus sui trend di repairing, quando aggiustare fa tendenza. Prima, come sempre, le notizie della settimana. La memoria storica della moda italiana sbarca sul web. Sarà online entro il prossimo giugno il portale Moda Italiana, il sito internet voluto dal Comune di Milano, che porterà in rete oltre 10 milioni di documenti, video e immagini. Le vendite a domicilio battono la crisi. Nel primo semestre dell'anno, le imprese del settore associate ad Avedisco hanno registrato un fatturato di 688 milioni, con una crescita di quasi il 2% rispetto allo scorso anno. È la leggendaria bottiglia della Coca-Cola, il contenitore in vetro più amato dai consumatori europei. Lo rivela una ricerca commissionata da Friends of Glass. Tra i marchi in vetro più amati in Italia figurano poi Nutella, Acqua San Pellegrino e Heinz Tomato Ketchup. Sta per arrivare il rivale di Kindle, il lettore elettronico di Amazon. Verrà lanciato a dicembre negli Stati Uniti il Reader Daily Edition firmato Sony, un lettore con touchscreen e connettività senza fili che permetterà di scaricare anche riviste, quotidiani e libri. Prosegue il connubio tra moda e design made in Italy. Dopo il successo delle ballerine in plastica, Cartel punta sui tacchi. Il nuovo modello di sandalo con zeppe alte 9 cm, naturalmente in plastica, riciclabile al 100%, si chiama Lady. Il disegno è di Norma Luisa, maison italiana, di Prêt-à-Porter. La società britannica Design Q ha presentato il progetto di un nuovo aereo con gli sgabelli al posto delle poltroncine, ispirato ai velivoli militari e alla metropolitana. Il nuovo apparecchio è pensato per i pendolari che compiono viaggi brevi, al massimo di un'ora. La borsa della spesa. Come sarà il negozio del futuro? È un interrogativo intorno al quale nel mondo del retail si discute e si sperimenta. Un futuro che in molti casi è già presente, come hanno dimostrato i progetti in mostra ad Abitare il Tempo, rassegna dedicata al design, alla decorazione e all'architettura d'autore che si è tenuta a Verona. Un negozio senza vetrine, organizzato intorno ad una sorta di piazza interna, una galleria di art design che vende solo pezzi unici e un net showroom, un punto vendita tutto digitale, senza prodotti e senza cataloghi cartacei. Punta sull'unicità il negozio del futuro, parole d'ordine, polisensorialità, coinvolgimento, virtualità, tribalità, emozione. Questi gli indizi, ora ci facciamo spiegare meglio il tutto da Claudio Vaona, coordinatore nazionale del Dipartimento Distribuzione e Servizi dell'ADI, l'associazione che ogni anno assegna il Compasso d'Oro, il più prestigioso riconoscimento italiano nell'ambito del design. Lo ha intervistato la nostra Adriana Fracchia. C'è una prima proposta che è di Franco Passamonti, che ha la propria attività a Cagliari, in cui il cliente è coinvolto in un processo di comunicazione che rende il negozio aperto 24 ore al giorno, perché a qualsiasi ora del giorno e della notte, negli intervalli di pranzo, nelle pause, nel momento in cui passa davanti alla vetrina, il negozio entra in funzione. Esistono delle vetrine touchscreen per cui sul prodotto che c'è in vetrina più altri che dei proiettori stanno simulando sulla superficie stessa della vetrina, il cliente può richiedere notizie sul prodotto in termini immediati, nel senso di chiedere varianti di colore d'altro semplicemente toccando la vetrina. Non solo, ma l'idea è di migliorare il rapporto tra il negozio e l'intera cittadinanza, nel senso che questi negozi potrebbero essere pronti a diventare fonte di notizie utili per tutta la città, cioè, per esempio sugli avvenimenti culturali o sui principali servizi. Un altro dei progetti, quello che abbiamo sviluppato con Ezio Ramera di Stile di Brescia, il quale ha pensato ad un negozio di dimensioni più grandi in cui scompare l'elemento vetrina, non ci sono vetrine, c'è un perimetro totalmente cieco e c'è un'apertura che porta in una sorta di piazza interna di grosse dimensioni, stiamo pensando a 1000, 1500, 2000 metri quadrati. Questa piazza è circondata a 360 gradi da vetrine e in queste vetrine ci sono un caffè-ristorante, è previsto un negozio che vende i prodotti di qualità che nascono sul territorio, è prevista una localizzazione autonoma per uno studio di progettazione, è prevista una galleria d'arte, è prevista una edicola e libreria, è prevista una biblioteca. Dividendo i 360 gradi in settori di 90, occupa 90 gradi di questa situazione. Gli altri 270 sono invece occupati da vetrine tradizionali, ma in quelle vetrine tradizionali c'è un servizio nuovo che il negozio offre. Il servizio nuovo è fare vedere al cliente la sua casa esattamente come sarà, con i prodotti che lui ha scelto per farla. Può scegliersi il colore della parete, il tappeto, le due luci, tutti gli accessori in una simulazione uno a uno di quella che è la sua realtà domestica. Questo è il secondo progetto. Poi ce n'è ancora un terzo? Poi ce n'è ancora un terzo in cui andiamo invece nella direzione che è quello della vendita dell'unico, cioè dell'art design. In questo caso Dario Maiocchi di Vimercate, il negozio che autoproduce i suoi prodotti, pezzi unici o di collezione limitata. Ora il consueto spazio dedicato alla grande distribuzione con l'intervento del direttore di Markup Luigi Rubinelli. Il futuro radioso del commercio risiede nella sostenibilità. Ormai tutti i consulenti, i convegni, gli articoli di giornale non sembrano aver trovato la parola magica che può ribaltare la sorte di un prodotto o di un servizio. Prodotto o servizio che sia, è l'uomo, l'informazione, la trasparenza che devono dettare il modo di porsi al cliente per passare da una logica consumistica a una più tranquilla logica di consumo. Prendiamo il caso del formaggio, visto che si è chiuso da poco CIS, la manifestazione dello Slow Food. Carlo Petrini dice da anni che è necessario che i pastori di alpeggio siano remunerati non solo per un prodotto davvero eccezionale, ma anche per il solo fatto che passano l'estate nell'alpeggio a difendere e a far vivere una porzione di territorio minacciato dall'imboschimento e dall'abbandono. Proviamo a cercare la sostenibilità anche nelle nuove formule commerciali. Feltrinelli ha appena aperto un nuovo megastore di libri e musica a Genova. La notizia sulla sostenibilità apparentemente non c'è. Invece, ecco che il terzo livello, un reparto nuovo nell'ideazione e nella realizzazione, si forma. È quello dedicato ai bambini. L'insegna ha ingaggiato Reggio Children, azienda conosciuta per il suo approccio rigoroso ai bisogni a 360 gradi del bambino. Ha costruito un nuovo assortimento e soprattutto un calendario di avvenimenti non tanto per vendere, ma per far crescere la cultura dei più piccoli. Più vendita responsabile di così. Essere e avere. Sarti, calzolai, falegnami, bricolore, creativi di vario genere, questo è il vostro momento. Focus sui trend della settimana dedicato al repairing, una tendenza che nei mesi della crisi si è imposta in molti settori, ha dato nuova dignità a un'arte dimenticata, l'arte delle riparazioni. Accanto a me, come sempre, la nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Negli ultimi anni, gli anni dei prodotti usa e getta, ci eravamo abituati a sostituire le cose rotte con cose nuove di zecca. Oggi, complice la crisi e la cultura della sostenibilità, prima di farlo ci pensiamo due volte. Dalla pratica del recycling, dicono gli osservatori più attenti, si è passati a quella dell'upcycling e l'aspettativa di durata dei prodotti, il loro grado di riparabilità, per così dire, sono diventati elementi fondamentali per le scelte di acquisto. Patrizia. Pensiamo che ad Amsterdam riparare è meglio che riciclare è uno slogan, ma anche un vero e proprio progetto sociale. Quest'estate si potevano vedere per strada persone che a piedi con televisori, tostapane, sedie, oggetti vari in mano, andavano tutte in direzione di Platform 21 Repairing, la fiera della riparazione, un evento che ha riunito designer, falegnami, ingegneri, sarti, eccetera, che offrivano competenze e consulenze ai visitatori e ai loro oggetti rotti. Questo evento, come altri, è stato promosso dal Ministero dell'Educazione, che intende in questo modo diffondere la cultura della riparazione proprio come evoluzione della già consolidata cultura del riciclo. Altri esempi a conferma, non solo in Olanda ma anche in Germania, sono per esempio i servizi mobili di riparazione di biciclette per strada, naturalmente fatti da meccanici in bici dotati di carrello al traino con cassetta degli attrezzi. La riparazione, il repairing, è un fenomeno interessante perché fa proprio da ponte tra il do it yourself, il fai da te, il bricolage, quello fatto per hobby, e, come dicevi, la nuova cultura della frugalità, quella sostenibile ma, come abbiamo detto più volte, comunque estetizzata e non certo impoverente. Quindi, come il riciclo, il baratto e il riuso, anche la riparazione degli oggetti rotti è un comportamento sociale molto interessante in questo momento, perché con un semplice gesto si consente a un oggetto che sta per diventare superfluo, che sta per essere rifiutato perché inutilizzabile, di continuare la sua vita da commodity, oppure di cominciarne un'altra, magari attraversando anche il mondo del design o dell'arte. Infatti la riparazione è anche interpretabile, si ibrida anche con l'uso artistico degli scarti, degli oggetti dismessi, perché fuori uso appunto, che non vengono riparati solo per tornare alla loro originaria funzione, una sedia che torna a essere una sedia, quindi funzione d'uso in senso lato, ma vengono anche riprogettati, riconvertiti, risistemati e diventano altro, magari appunto oggetti di design o opere d'arte. Tra le realtà più innovative e recenti in questo senso, da segnalare Resign Academy, un collettivo di Faenza, quindi italiano, nato intorno all'idea del riuso dei segni, che offre anche un interessante servizio di riprogettazione a domicilio, cioè la ricombinazione di oggetti rotti, dismessi e scartati che nel loro contesto, quindi i designer vengono proprio a casa nostra, vengono riassemblati e risistemati, quindi un cassetto diventa un tavolo con degli altri piedi recuperati da altri oggetti, un ombrello può sostituire un pezzo di balaustra rotto in una scala, eccetera. Quindi con uno slogan tutto si può rifare, come recita il titolo di un recente manuale su questo tema e dintorni. Gli indicatori di questo fenomeno sono molti, arrivano come sempre dagli Stati Uniti, dove il bricolage chic contagia VIP e gente comune e sbarca, come sempre avviene per le nuove tendenze, anche al cinema. Si dice che nel nuovo capitolo di Sex and the City, ancora in lavorazione, Carrie venga ripresa mentre sferruzza, e proprio il lavoramaglia è al centro di un altro film in arrivo, The Friday Night Knitting Club, con Julia Roberts, mentre diventano out film come I Love Shopping. Avete presente quando incrociate due begli occhi che vi sorridono e il cuore vi si scioglie come una noce di burro su pane tostato caldo? Io mi sento così quando vedo un negozio. What's wrong with me? E dopo hai un tuffo al cuore quando ti rendi conto che... $120 per una muta da sub. $787 di biancheria intima. L'intimo è un diritto umano inalienabile. Stivali di Pucci! Li ho visti prima io, quindi sono miei. Ci sono venuta dal New Jack, Simone! Era lì tu! Guarda, c'è una svendita di Burberry! Bugiata! C'è un signore in attesa sulla 2. È il servizio recupero crediti per Rebecca. Passano anche dal cinema le conferme alla tendenza del DIY, che sta per Do It Yourself, il fai da te in versione glamour. Le cifre parlano chiaro. In America in un anno sono state vendute 35 milioni di macchine da cucire. È boom dei corsi per imparare il taglia e cuci, e sul web sono cliccatissimi i blog del fatto a mano, vetrina per nuovi stilisti e designer. Gettonatissimi anche i consigli per rifare a casa i vestiti delle attrici, e sugli scaffali di Walmart sono comparse le etichette per i lavori a maglia con la scritta «Fatto a mano con amore da...» Patrizia, reazione creativa alla crisi che ha imposto una riduzione dei consumi o voglia di sfoggiare pezzi unici? Beh, naturalmente tutte e due le cose, forse in certi casi si traveste da vezzo anche una necessità, se pensiamo al repairing associato non so, ai vestiti, al guardaroba, diciamo che la riparazione prende le mosse soprattutto dal gusto di farlo, dalla voglia dell'espressione creativa, quindi non sempre, non solo dalla seppur comoda necessità di svecchiare e far sembrare diversi i soliti capi noti, quindi mischiando tessuti, generi, epoche e fogge. È interessante, intorno alla nuova mania della riparazione legata agli abiti, oltre al boom dei corsi di messa a rimodello di abiti e accessori vecchi appunto usati e anche alle vendite delle macchine per cucire, la nascita di nuove abitudini sociali e aggregative soprattutto al femminile. Ci sono questi raduni party fashion con gruppetti di amiche che si riuniscono a casa di qualcuno con magari una bottiglia di vino intorno a una cena e poi si taglia, si cuce, si ricombinano materiali, c'è uno scambio di pezzi, insomma si sistema e si trasforma quello che si ha già. Naturalmente il mondo della moda con la M maiuscola ha fatto in qualche caso del repairing un concept nobile, ispirativo per vere collezioni. Voglio segnalare la collezione Medea di Chalayan, che è fatta con abiti vecchi del suo archivio che sono ricuciti, ritagliati e riassemblati, e quindi il tema non è assolutamente in questo caso evitare lo spreco, ma è un approccio artistico ma basato su un concetto molto importante, quindi dare vita al passato, far rivivere la memoria del passato. Quindi in questo caso, in tema di pezzi unici, abbiamo un pezzo unico che però si carica di storia e di valore perché fisicamente è fatto con dei pezzetti di storia. Cosa c'è di nuovo a Berlino su repairing e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio, un saluto a tutti. Partiamo da Berlino perché è berlinese l'artista che ha dato il là a una pratica di recupero creativo dei muri delle città. Jan Forman, si chiama così, ha sperimentato questa tecnica per la prima volta in un piccolo paese in provincia di Roma. Tecnica che consiste nel riempire le sbrecciature delle mura antiche o rovinate con i mattoncini Lego, quelli di plastica multicolore di quando eravamo bambini. Da lì ha ripetuto l'esperimento, che è la sua performance artistica, sia nella sua città, ricucendo allegramente le ferite inferte ai palazzi storici ancora dalla Seconda Guerra Mondiale, sia a Tel Aviv, recentemente anche ad Amsterdam, ottenendo un incredibile successo in termini di seguaci, nel senso che le persone, i cittadini a Berlino come ad Amsterdam, hanno preso a rattoppare in questo modo le crepe nei muri di loro iniziativa, trovando la cosa divertente e allo stesso tempo utile. Se ci pensiamo bene, infatti si tratta di un gesto minimo in cui si stratificano molteplici significati. C'è sicuramente una componente ludica, nonché nostalgica, nel maneggiare un gioco che ha fatto parte dell'infanzia di tutti noi. E c'è poi l'aspetto del prendersi cura in prima persona della propria città, contribuendo a migliorarne l'aspetto. E in effetti il contrasto tra l'irregolarità dei vuoti e la regolarità seriale e cromatica del mattoncino che li riempie genera questi piccoli paesaggi esteticamente molto affascinanti in cui caos e armonia convivono. Grazie Alessia. Patrizia, siamo in conclusione. Tutto quello che abbiamo detto è un'ulteriore conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, del tramonto dello shopping sfrenato, puramente consumistico, è così? Sì, che sia arte o gesto quotidiano, il fenomeno del repairing segna il ritorno ad un rapporto più duraturo con gli oggetti che ci circondano e che fino a qualche tempo fa, appena rotti, appunto venivano sostituiti con modelli nuovi. Chissà che in futuro non si cominci a fare domande sul grado di riparabilità, come dicevi tu all'inizio, quando stiamo comprando qualsiasi cosa. Si chiude qui anche questa puntata di Essere Avere. Alla settimana prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.